differenze tra poliziotti e donne lesbiche. Lo sai che cosa vuol dire? Lo sai, ma da un po' ci giri intorno lo stesso. E poi, lo sai che vuoi dire con poi? Se caviale da contorno, io esco. Se hai deciso di vivere nel porno come in un soggiorno, ci son sedie in fondo. Siedi per favore, è inutile la convivenza. Se non ritorna, e se non ritorna, sarai per sempre soltanto sarai. Mi dispiace ma son morto da un pezzo. Questo già lo so, ma lei, lei che fissa soltanto lei. E perciò mi riconosco. Le cosce. Sembrava seria, ma era lesbica di tratto. Diceva: sono figlia di un ciocco, sono un poliziotto. Ha deciso di condannarlo a morte, anche se disturba, anche se la turba. Ci sono sedie in fondo. Tra 4 minuti muore, non rimane il suono, ma l'odore.